Prendiamo in considerazione una delle tante espressioni dell'Apostolo Paolo nella seconda lettera, scritta agli abitanti di Corinto. Or sia ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. 2 Co. 2.1.4. Quando si parla di trionfo ci si riferisce sempre ad un evento maestoso di gloria e di onore, e che nella Roma antica veniva tributato al condottiero vittorioso sui nemici esterni. L'Enciclopedia Treccani dà una particolareggiata descrizione del trionfo nell'antichità romana, mettendo in enfasi che in testa al corteo che ne costituiva lo svolgimento si trovavano i senatori e i magistrati, seguiti dagli animali sacrificali votati al dio, dall'apparato sacerdotale e dalle spoglie dei vinti, il bottino trainato su carri, i prigionieri di alto rango e infine la massa dei prigionieri più umili. Il centro del corteo vedeva invece protagonista il gruppo del trionfatore, preceduto da littori e musici, il vincitore della campagna splendidamente abbigliato come Giove Capitolino e con il viso dipinto dal sacrale colore. Rosso avanzava su di un carro trionfale trainato da 4 cavalli bianchi, accompagnato a bordo del carro dai figli minori e a piedi da quelli maggiori e dagli altri parenti adulti. E, in questo scenario, che l'Apostolo Paolo usa il termine trionfo, dicendo che Dio faceva sempre trionfare chi lo serviva fedelmente. Eppure, qualcosa a prima vista non torna. Nei Vangeli e nelle lettere degli Apostoli, dove troviamo scritto che i seguaci di Cristo abbiano trionfato in questa maniera? Quando mai si è letto nella parola di Dio che i servitori di Cristo sono stati sempre vincitori ed abbiano ricevuto l'onore che veniva attribuito ad un comandante che avesse riportato una importante vittoria su di un nemico? A dire il vero, lo stesso Paolo, quando traccia un resoconto della sua vita, descrive avvenimenti molto diversi dal trionfo descritto dagli storici. Ecco un esempio di una breve autobiografia dell'Apostolo Paolo quando si confronta con i falsi apostoli. Sono servitori di Cristo? Io lo sono più di loro. Più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. 2 Co. 11.2328. Si potrebbe obiettare che tutti i condottieri e vincitori hanno sopportato fatiche e pericoli di morte. Perciò nulla di strano che anche l'Apostolo Paolo abbia dovuto subire come araldo del Vangelo ciò che subiscono i trionfatori nelle guerre, ma i suoi resoconti personali tolgono ogni dubbio in merito. Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli Apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, siamo deboli, siamo disprezzati. Fino a questo momento, noi abbiamo fame e sete. Siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Siamo diventati, e siamo tuttora, come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. 1 Co. 4.9.13. Raramente si trova una descrizione così sprezzante nei confronti di persone come gli apostoli di Cristo. Uomini non solo disprezzati e deboli, caratteristica questa per nulla adatta a coloro che trionfano meno, ma soprattutto ultimi fra tutti e ritenuti spazzatura del mondo. Non è possibile ritenere meno di niente uno che abbia trionfato, perché nessuno al tempo di Cristo considerava ciò che tutti buttavano via per la sua inutilità come la spazzatura. Eppure, l'Apostolo Paolo afferma con orgoglio che lui e coloro che servono Cristo sono dei trionfatori, e non solo semplicemente vincitori, perché questo, per combinazione casuale, può esserlo chiunque, ma i servitori cristiani sono sempre trionfanti in ogni cosa. Com'è possibile ciò? O che Paolo se la stava raccontando in buona fede, oppure ha detto una verità che a noi, dopo 2000 anni, sfugge. Che Paolo dicesse delle stupidaggini in buona fede è ancora da dimostrare, perciò la cosa più saggia è cercare di capire cosa intendeva l'Apostolo scrivendo che in Cristo era sempre un vincitore trionfante. Per comprendere l'Apostolo Paolo occorre tenere presente una verità molto semplice. Le vittorie o i trionfi non sono solo in campo militare, ma trionfare è possibile anche in altri settori, come in una conversazione, in una gara sportiva o in uno spettacolo. Infatti, di quest'ultimo a volte si dice è stato un trionfo. Anche in quest'ottica resta tuttavia difficile comprendere cosa intendeva Paolo affermando che in Cristo trionfava sempre, perché comunque rimane il fatto che lui, gli apostoli e coloro che servono fedelmente Cristo sono disprezzati, scherniti, contrastati, umiliati e infine ritenuti come la spazzatura di questo mondo. Che cosa dobbiamo capire? È possibile comprendere le espressioni dell'apostolo Paolo solo dai suoi scritti, perché in essi più volte traccia alcuni resoconti della sua vita. Per esempio, nella lettera ai Corinzi, parlando del suo compito di predicare l'Evangelo, scrive: «Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale». 2 Co. 4.7.11. Dagli scritti di Paolo risulta evidente che il cristianesimo non è pura filosofia nella quale l'uomo si diletta con piacere, ma è un vivere pienamente e coscientemente l'esistenza terrena in tutti i suoi aspetti, piacevoli e spiacevoli. Il cristiano riconosce che pur avendo ricevuto doni inestimabili quali la gioia, la pace e la speranza, realizza anche di essere, come tutti gli uomini, travagliato in tutti i sensi. Ma nonostante ciò ha pur sempre una continua fiducia nell'amore di Dio, realizza anche lui di avere tanti interrogativi, ma che non lo portano ad essere senza speranza. Si rende conto di essere perseguitato, ma anche in questa situazione può essere isolato, senza però sentirsi solo. A volte può anche essere gettato a terra miseramente, ma realizza che la vita di Cristo è la sua stessa vita. Rinuncio. Questo è il trionfo del cristiano. Là dove gli uomini perdono ogni speranza e ogni fiducia, chi ha posto fede in Cristo trova in Dio tramite Cristo forza quotidiana, nuove energie, nuove prospettive, ragioni sempre nuove per vivere al di sopra delle circostanze negative. Spesso si pensa che chi arriva all'estremo gesto del suicidio in quel momento perda la ragione, ma forse le motivazioni sono al contrario. Il suicida vede con un attimo di estrema lucidità la cruda realtà negativa della vita. E, poiché non ha nessuna speranza e fiducia, trova che la cosa più saggia sia quella di evitare il mostro della solitudine e del dolore tramite la morte. Il suicida è una delle vittime di un mondo senza Dio, senza Cristo. Se il cristiano trionfa sul male non è perché è più saggio o più forte, ma perché in Cristo trova la risposta ad ogni suo problema. Una filosofia arriva fino a un certo punto. Cristo solo può rendere trionfante qualsiasi miserabile uomo. Trionfare sulle negatività della vita è già una grande cosa, ma Cristo dona a chi ha posto una fede salvifica in Lui non solo una vittoria sulle circostanze, soprattutto dona un trionfo nelle reazioni all'ingiustizia, cosa questa che si trova solo nel regno di Dio. Sintetizzando ancora l'esperienza della sua vita, Paolo scrisse: «Ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, diffamati». Esortiamo, 1 Co. 4.12. Ecco il trionfo del trionfo. Quando si è insultati, perseguitati, calunniati, lo si può anche sopportare per un principio di moralismo, ma benedire i propri nemici, pregare per essi, esortare nonostante tutto, sostenere un peso per amore, parlare bene di chi parla male di te, sono reazioni che solo lo Spirito di Cristo può produrre. In effetti nessun discepolo di Cristo può compiere azioni o avere reazioni diverse da quelle che ha avuto Gesù. Se il cristiano è vittorioso sul male, è perché Cristo Gesù ha trionfato sul male, e questa verità si trova espressa anche nella lettera ai Colossesi. Gesù Cristo ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. GL 2.15. Essere inchiodati sulla croce. Al tempo dei Romani significava la massima sconfitta e l'estrema umiliazione, eppure il Figlio di Dio, fattosi carne, proprio in quella situazione ha realizzato il massimo trionfo sugli uomini, sul male e sulle potenze malvagie celesti, perché mentre era odiato egli ha potuto dire: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. LC 23:34. Che trionfo! Questo è il vero trionfo. Mentre agli occhi degli uomini il trionfo è vincere chi è più debole, è essere sempre sulla cresta dell'onda, è umiliare il prossimo, è avere onore e successo, è riuscire ad essere stimato a qualsiasi costo, è avere una mente disonesta pur di realizzare i propri scopi. Chi segue la via stretta di Cristo trionfa con i metodi che Cristo stesso ha usato. Egli non si è imposto su nessun esercito terreno, ma è il re di un immenso esercito di persone, che prima di tutto trionfano su di loro stessi, come sta scritto: chi è lento all'ira vale più del prode guerriero, chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. DR 16.32. Non si può trionfare sulle circostanze della vita, sugli uomini, sul male e l'ingiustizia, se prima non si è vittoriosi sulle proprie inclinazioni malvagie. E dato che nessun essere umano è in grado di vincere le proprie debolezze e mancanze, solo chi si arrende totalmente e senza riserve al volere di Cristo realizza di essere stato benedettamente sconfitto dal trionfo di Cristo. Solo allora, nella più completa sottomissione e debolezza, il cristiano realizza che Cristo trionfa sempre in lui. Un trionfo che avrà l'apogeo dopo la morte. Giugno 2007. Ellero,